La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Miraggio. Io ho sognato il padre della ballerina, il cuoco. In miseria e nobiltà, il cuoco per Totò era un sogno, un miraggio. Erano altri tempi, l'Italia usciva dalla seconda guerra e la fame aveva reso tutto più doloroso, ma anche più semplice. Perciò un piatto di spaghetti con la carne al sugo era una meraviglia senza fine, che la domenica ogni tanto ci si poteva permettere. Oggi, invece, a che punto siamo? Davide Oldani è uno dei più grandi chef al mondo, è italiano e vive nella provincia milanese. Per lui cucinare è tutto e la sua vita è tutta lì, in cucina. Nella sua vita c'è stata una prima volta, cioè un momento in cui ha avuto proprio la percezione che la sua vita prendesse una direzione precisa, che stessero cambiando le cose, il corso delle cose? Certo che sì, e la prima volta è stata il 23 ottobre 2003 quando ho aperto Do, che cambiava totalmente il mio modo di il mio approccio col mio lavoro, nel senso che diventavo imprenditore di me stesso offrendo al pubblico un prodotto di qualità. Perché ha deciso di aprire un ristorante a Cornaredo? Perché io sono di Cornaredo, mi piace tornare un po', perché mi piaceva l'idea di tornare a casa un po' con la famiglia, no? Il fatto di essere a casa nel mio territorio, con i miei prodotti, con le mie persone. Ecco, lei sul suo sito, il sito che poi dal quale ci si può mettere in contatto per arrivare al suo ristorante, ha pubblicato anche un decalogo, no? 10 pillole di filosofia pop. Esatto. Leggendole sono regole che secondo me valgono anche fuori dalla cucina. Ecco, secondo lei di queste 10 regole, per lei, per Oldani, qual è la regola più importante? La regola più importante naturalmente sono tutte 10, che una va a compensare l'altra, e quindi direi che non ho una preferita, ma ho un'etica nell'affrontare tutte queste regole, nel senso mi piace che l'approccio e il rispetto del prossimo, degli altri, è solo con il rispetto degli altri che si possa andare avanti bene e soprattutto avere successo. Ecco, lei ha parlato degli altri. In questo momento storico molte famiglie stanno vivendo una pesantissima crisi. Secondo lei, dal suo punto di vista, sta anche cambiando il modo di cucinare? Cioè lei percepisce questi cambiamenti? Ma il modo di cucinare, se parla come metodo di cucina, i cambiamenti sono stati fatti tanti all'insegna della qualità e del preservare il prodotto di qualità. Se poi dobbiamo dire che cambia, è cambiato il cibo, quello direi poco, nel senso che direi che il cibo è cambiato relativamente. Cambiato relativamente perché comunque noi lavoriamo ancora con carne, pesce, frutta e verdura. Quindi queste sono le cose più importanti. E lei da piccolo cos'è che sognava di fare? Ma di fare probabilmente un mestiere del quale fossi stato innamorato, e io sono innamorato del mio mestiere perché lo faccio pienamente. Ma come ha fatto a decidere? Cioè qual è stato il momento in cui ha detto decido di fare il cuoco? C'è stato un momento oppure? No, c'è stato un momento in cui io avevo comunque questa intenzione di farlo, forse perché preso dalla mamma che è bravissima cuoca, appassionata di cucina. E quindi probabilmente il là me l'ha dato lei, poi è stata un po' tutta l'educazione di entrambi i miei genitori che m'hanno aiutato sulla strada giusta, cioè dire ok, hai deciso di fare questo mestiere, adesso ti prendi le responsabilità e lo porti avanti. La prima volta di Davide Oldani ha dunque inizio in cucina, in particolare in una cucina di Cornaredo, sotto lo sguardo della madre, appassionata anche lei. Davide impara ciò che gli sarà più utile nella vita, e cioè dare gusto ai propri sogni. In fondo, e in questo letteratura e cinema non si stancano di insegnarcelo, la cucina ha a che fare con ogni cosa riguardi la nostra vita. Lo sa bene il protagonista di Un tocco di zenzero. Il nonno diceva che la parola gastronomo racchiude la parola astronomo. E in quanto tale, le mie lezioni di astronomia prevedevano l'uso delle spezie. Facciamo così. Io ti dico alcune cose, tu assaggi e pensi, hai capito? Cominciamo. Pepe è caldo e scotta. Il sole. Il sole. Bene, bravo. E cosa illumina il sole? Ogni cosa. Esatto. Ecco perché il pepe va in tutti i cibi. Poi c'è Mercurio. Anche lui è caldo. E poi c'è Venere. Cannella. Venere era la più bella di tutte le donne. Ecco perché la cannella è dolce e amara, proprio come le donne. Poi c'è la Terra. Dove stiamo noi? Che cosa c'è sulla Terra? Sulla Terra c'è la vita. Sulla Terra c'è la vita. Qui c'è la vita, là c'è la vita, ovunque c'è la vita. E di che cosa ha bisogno la vita? Di cibo. E cosa rende il cibo più gustoso? Il sale. Il sale. E anche la nostra vita ha bisogno di sale per avere più gusto. Sia il cibo che la vita hanno bisogno di sale. La prima volta. When you call me weird names that make all kinds of weird faces, when you drag me along to all the stupidest places, you know it's not fair, but you know what you do, because you know how bad I like to be with you. And then you're like... Milanese, 42 anni, una stella Michelin. Davide Oldani è una celebrità internazionale, è un cuoco che ha studiato alla scuola di Gualtiero Marchesi, che ha lavorato a Londra, a Monte Carlo, a Parigi. Eppure, nonostante la lunga strada compiuta, Oldani resta sempre il ragazzo di Cornaredo che cucinava al fianco della madre. Oldani resta di fatto un ragazzo che, come molti, ama il risotto della mamma e che, quando può, gioca a calcio. Un normale uomo italiano, insomma, che però nel tempo si trasforma in uno dei cuochi più quotati al mondo. Le tappe più importanti sono tutte quelle che ho deciso di fare dall'inizio, cioè andando prima da Marchesi, passando poi per Le Gavroche a Londra, andando poi da Ducasse a Monte Carlo, quindi a Parigi da Pierre Hermé. Quindi sono tutte tappe che io ho deciso a tavolino di fare per poter imparare una metodologia di lavoro corretta, cioè partendo dalle basi per arrivare alla conoscenza di tutto quello che è il mondo dell'alta gastronomia. Lei è uno dei cuochi più amati in Italia, ma anche a livello internazionale, e non è amato solo dalla critica, è amato anche dalla gente. Perché, secondo lei? Ma anzitutto mi fa piacere che lei mi dica questo e mi dà ancora più forza per andare avanti e a fare quello che stiamo facendo. Non lo so, questo credo perché abbiamo un atteggiamento molto di basso profilo e poi perché abbiamo deciso di rendere accessibile una cucina del territorio. È stato il momento in cui io avevo comunque questa intenzione di farlo, forse perché preso dalla mamma che è bravissima cuoca, appassionata di cucina. Quindi probabilmente il là me l'ha dato lei. Lei adesso, parlando dei suoi genitori, ha fatto sentire molto questo senso di una bellezza, di qualcosa che si passa attraverso la cucina, no? Cioè un sapere che si passa attraverso il sapore, mi permetta questo gioco. E lei crede appunto in questo? Cioè lei crede che una madre, un padre, attraverso la cucina possano dare molto di più di quello che si immaginano cucinando, appunto? Ma sì, perché quello che può dare il padre e la madre per la cucina è un ingrediente in più che è molto comune, conosciuto, ma poco applicato, che è l'amore. È vero. E facendo questo discorso, quando vede certe cose di cronaca, per esempio questi festini che ci sono stati a Roma, gente travestita da maiale. Cioè, lei un po' se le immagina queste persone a tavola? Che cosa potrebbero mangiare persone così? Ma non lo so, non ho idea, perché probabilmente eviterei anche di incontrare a tavola, siccome per me la tavola è sacra, e quando decido di essere su questa tavola vorrei farlo solo con persone che realmente apprezzo e che mi possono insegnare qualcosa. Quindi queste cose qui le ho viste un po' molto dall'esterno e non vorrei neanche giudicarle, mi sembrano un po' fuori luogo, un po' fuori dalla logica, però non sono io a dover giudicare situazioni del genere. Insomma, per me la tavola è sacra e pertanto la frequento solo o famiglia o persone che veramente hanno qualcosa da insegnarmi, da venirmi, da raccontarmi, da spiegarmi. A un ragazzo che ha voglia di iniziare, magari a lei come mito, che cosa consiglia? Ma di applicarsi tanto e di farlo con l'ingrediente segreto che dicevamo prima, che è l'amore, di darsi, concedersi con passione al mestiere e far sì che il mestiere diventi un po' la colonna portante della propria vita, perché di rito di rapa bisogna comunque sapere che gran parte della nostra vita è dedicata al lavoro. Anche se non lo volessimo, dobbiamo, perlomeno per me, così. Quindi devo farlo con tanto amore, tanta serietà e basta. Quindi applicarsi, dedicarsi al mestiere. 9 anni fa Davide Oldani apre Do, una trattoria che di fatto fa rivivere un paese, Cornaredo, Interland milanese. Come dicono gli esperti, Cornaredo non è la Toscana del Chianti, non ha i paesaggi dell'Oltrepò pavese. Cornaredo è un paese di periferia, della periferia milanese. Quasi, dicono alcuni, il viaggio non vale la pena. Se non fosse per questa trattoria, dalle pareti color tortora che accoglie chi ha voglia di mangiare davvero bene a un prezzo moderato. Acqua dolce, acqua dolce, ma den dulce che ni sengel bebev. Acqua straca e acqua sgonfia, sciusciremo i gambi di fiolet. La bandera in se l'arriva, culto asper, pugiaggio e cenac. El savon e la camisa, sfrega i panni e il riflesso di montagna. Oldani nel suo ristorante sperimenta cose mai viste. Lavora la pasta come fosse materia da forgiare, trasforma la minestrina in un piatto d'alta cucina. E così, alla fine, quello che ritrova è la memoria di un'infanzia milanese, di una madre appassionata di cucina e di una via nuova, quella di poter rivedere il passato in una veste diversa. Faccio il cuoco per far star bene gli altri, questo è il motivo più importante della mia vita, quindi far star bene gli altri quando sono seduti, quindi assolutamente no show, no, non voglio stupire nessuno, voglio solo far star bene la gente a tavola riscoprendo la convivialità all'italiana. E tra questi naturalmente il primo passo è il cibo. Quello che io faccio sul confrontarmi con la pasta è proprio l'idea di dare un qualcosa di nuovo che faccia parte comunque della tradizione italiana. E da lì l'idea di usare le pastine. E le pastine ho visto che possono essere utilizzate sì in brodo, sì in minestra, però anche asciutte. Non è l'ingrediente che si è adattato a me. Io ho adattato la mia manualità all'ingrediente. E da lì è venuto fuori questo piatto che ora va per la maggiore al Do, che è stato quello di mantecare una pastina. Detto questo, c'è il secondo passo, che è quello dell'utilizzo, anzitutto di vivere in una società in cui abbiamo tutti la possibilità di accedere a tanti prodotti. E questi prodotti comuni possono essere dalla pasta, alla frutta, alla verdura. E io ho deciso in questo caso di andare a valorizzare un prodotto che sta nella mia tradizione, nel mio DNA, della mia infanzia, che è la pastina, che è un tipo di pasta che è, secondo me, dimenticata dalla cultura dell'italiano. Il menù della trattoria di Oldani è esposto fuori dal locale e non è sbagliato. Si può pranzare con 11,50 €. Ma la bellezza del locale di Oldani non è solo nel prezzo, ma nella capacità di accogliere i singoli clienti come fosse ogni volta la prima volta. Cibo per l'anima, insomma, come dirà uno dei protagonisti del film Soul Kitchen. Rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata. Ecco, 45 euro. Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno? Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima. Mi piace. Soul Kitchen. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima, sempre attorno alle 13.05. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.